Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 21 giugno 2015. La nuova agricoltura sostenibile parte dal territorio. Territorialità, produzioni locali, piccole imprese. Sono questi i concetti cardine attorno ai quali si sta riorganizzando, a partire dal nuovo modello di agricoltura sostenibile lanciato 3 anni fa a Rio de Janeiro, la produzione mondiale di derrate alimentari. I risultati sono ancora limitati perché la concorrenza dei modelli di sfruttamento globale è molto forte, ma in diverse aree del pianeta quanto deciso a Rio ha permesso di promuovere il sostegno ai piccoli produttori, di porre un freno all'accaparramento di terre e di moderare la corsa dei prezzi agricoli. Fin qui la notizia del 21 giugno 2015, ma come sapete il futuro ha radice nel presente, in questo 2012. Il summit di Rio de Janeiro si deve confrontare necessariamente con la sfida di un nuovo modello di agricoltura, meno pesante per l'ambiente e più adeguato a garantire il cibo per tutti. Claudio Massimo Cesarotti, economista, fa parte del comitato scientifico della Fondazione Sviluppo Sostenibile. Gli obiettivi del millennio per quanto riguardava la sostenibilità davano una serie di indicazioni relative alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura e purtroppo l'ultimo rapporto del millennio, che è del 2009, in larga misura non sono stati raggiunti. Non sono stati raggiunti proprio perché non ci sono state modificazioni nel modello di agricoltura mondiale. Modello di agricoltura che è basato sulla specializzazione e sul modello di ammodernamento delle strutture agricole, che punta molto sulle tecniche moderne, concimazione, acqua per irrigazione, produzioni alimentari il cui territorio viene abbandonato dai contadini per dare luogo ad agricoltura più moderna, più meccanizzata, più chimicizzata, e tutto questo ha creato una nuova domanda alimentare da parte dei contadini che sono stati allontanati dalla terra e che gravitano intorno alle grandi metropoli, e ha creato una serie di squilibri a livello di impatto ambientale, perché questo modello è un modello che provoca dei danni notevoli all'agricoltura per i consumi di energia, per i consumi d'acqua eccessivi. Oggi si tratta sostanzialmente, a mio parere, di ripartire da un'agricoltura che sia in grado di dare le sussistenze alimentari e insieme, attraverso gli ammodernamenti modesti che possono essere introdotti nelle piccole aziende, produrre via via eccellenze per il mercato, per rimettere in equilibrio soprattutto le produzioni che viaggiano a lunga distanza e che producono grandi danni per i grandi consumi di energia. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.